27. Due tribù si contendevano la terra. Una abitava a nord del San Lorenzo, l'altra a sud. Il padrone della vita, amareggiato per quella guerra, decise di scendere dal cielo con un misterioso bagaglio. La notte era umida, il fumo teneva lontane le zanzare. Peter raccontava la leggenda di Manituana, il luogo dove erano accampati. Gliel'aveva raccontata sua madre, ma non la ricordava bene. Con lui c'erano Walter Butler e tre giovani guerrieri di Cana Yoharie, venuti durante il turno di guardia con una bottiglia di whisky trafugata chissà dove. Il padrone della vita srotolò la coperta e dentro c'era una terra di delizie, creata perché tutti vivessero nell'abbondanza e non ci fosse più motivo di combattere. Appoggiò il regalo sulle acque del San Lorenzo, a distanza uguale dalle due sponde, e invitò gli uomini a trasferirsi lì. Per lunghi anni il popolo del sud e il popolo del nord vissero in pace su Manituana. Per parlarsi mescolarono le loro lingue, così che nessuna incomprensione potesse sorgere. Nacquero i primi figli, e molti di essi avevano il padre di un popolo e la madre dell'altro. Ciascuna famiglia voleva che i discendenti imparassero anzitutto la lingua e le abitudini degli avi. Così, mentre i figli crescevano e parlavano la lingua bastarda che non era madre per nessuno, la gente del nord e la gente del sud ripresero ad odiare. Quelli del sud tornarono al sud e quelli del nord al nord. Soltanto i figli, che non erano di nessun popolo, restarono su Manituana, mentre i loro parenti si preparavano a combattere per decidere chi tra loro avrebbe tenuto l'isola. Le grida e i canti di guerra salirono in alto e spinsero il padrone della vita a scendere una seconda volta. Arrivato sulla terra, capì che gli uomini combattevano di nuovo per colpa del suo regalo. Allora raccolse la coperta e la portò via. Ma mentre scostava la tenda dal cielo, la coperta si aprì e la terra precipitò nel fiume. La voce di Peter si fece più profonda, il ritmo delle parole rallentò. Si levarono onde altissime e i guerrieri, schierati sulle sponde, morirono tutti. Manituana si frantumò in pezzi, briciole, scogli, le mille isole del San Lorenzo. «E i figli rimasti sull'isola?» domandò uno dei giovani guerrieri. «Che ne fu di loro?» Peter guardò la tazza che aveva tra le mani ed elargì il finale a sorpresa. «Quei figli siamo noi. Quando l'isola cadde dal cielo, molti annegarono. Altri, invece, restarono avvinchiati a un brandello di terra e riuscirono a salvarsi. Ma ne avevano abbastanza delle guerre tra nord e sud, così cercarono un'altra patria e infine la trovarono, nella valle del Mohawk». I ragazzi di Cana Yoharie scolarono la bottiglia alla salute di Peter. Toccava a Walter Butler. «Io non conosco leggende indiane, ma posso raccontare la storia di Ethan Allen, il Golia delle Verdi Montagne, l'uomo che ha conquistato Fort Ticonderoga». «La conosci davvero?» chiese Peter. «Me l'ha raccontata mio padre. Conosceva Allen prima che diventasse un fuorilegge». Walter, compiaciuto per aver attirato l'attenzione, attaccò la storia. Ethan Allen era un brigante sanguinario, alto più di 6 piedi. Da anni spadroneggiava sulle Green Mountain, che un tempo facevano parte del New Hampshire. Poi quella terra l'aveva comprata la colonia di New York e ci aveva mandato i suoi coloni. Allen era un coltivatore che non voleva pagare le tasse a quelli di Albany perché li odiava. Aveva sparato sui nuovi arrivati, aveva reclutato una banda di criminali, i Green Mountain Boy, e si era proclamato colonnello. Il re in persona aveva messo una taglia di 300 sterline sulla sua testa. Lui ne aveva offerte 5 per chi gli avesse consegnato il governatore. Il padre di Walter lo considerava il più pericoloso bandito d'America. Quando i Whig avevano sparato contro l'esercito a Lexington e Concord e subito dopo avevano preso d'assedio Boston, Allen aveva capito che poteva allearsi con loro. Quelli ce l'avevano col governatore del Massachusetts, lui con quello di New York. Il suo scopo era proclamare le Green Mountain territorio indipendente e con l'aiuto dei bostoniani poteva riuscirci. Così era diventato Whig anche lui. Avevano preso Fort Ticonderoga mentre la guarnigione era ubriaca. Ethan Allen aveva gridato: «In nome del grande Geova e del Congresso continentale, io prendo possesso di questo forte». I Green Mountain Boy erano entrati puntando i fucili, come quando i greci erano entrati a Roma nascosti in un grande cavallo di legno, solo che il cavallo di legno non c'era. I greci a Roma. Peter stava per obiettare quando udì un rumore di frasche. «Hai sentito?» chiese Walter, voltandosi di scatto verso la boscaglia. Balzò in piedi, con il fucile in pugno e la faccia pallida. La vista di una figura nota lo tranquillizzò. «Signor MacLeod», disse. Gli rivolsero un saluto discreto mentre lo scozzese entrava nel cerchio di luce. «Tre bastardelli hanno grattato una bottiglia dalla mia riserva. Li hanno visti che salivano da queste parti». Peter si guardò intorno con imbarazzo. I ragazzi indiani erano spariti. «Da qui non sono passati», si affrettò a dire Walter. «Possiamo offrirvi del tè», propose Peter. MacLeod grugnì un ringraziamento. Sedette e lanciò un'occhiata dietro le spalle. «Non siete i soli a far la guardia stanotte. C'è anche quell'indiano», indicò il buio. «La Croix». Peter si voltò, come potesse vedere attraverso le tenebre. «Dove?» chiese. «Laggiù, seduto al buio». «Impossibile», commentò Walter. «Non l'abbiamo visto e nemmeno sentito». «Già», annuì MacLeod, afferrando la tazza. «Come non avete visto quei tre ladruncoli, eh?» Walter fece per ribattere qualcosa, ma fu di nuovo lo scozzese a parlare. «Ci ho quasi sbattuto contro, immobile come il tronco di un albero». «È un tipo strano», si affrettò a dire Walter. «Com'è che lo chiamano?» «I nemici lo chiamano Le Grand Diable», rispose Peter. «Per via di una vendetta, ho sentito dire». «È una storia di molti anni fa», disse MacLeod. «La conoscete?» L'uomo rimestò il fuoco con un bastone. Tornato dalla guerra, si sposò e andò a ovest a cacciare, con moglie e figlia. Un giorno arrivò a casa e trovò la famiglia massacrata. La voce di MacLeod arrochì. Indiani Huron, sbandati e ubriachi, reietti che le tribù avevano allontanato. Sputò per terra. Le avevano scannate come bestie. Tacque. Il crepitare delle fiamme era l'unico rumore netto nel coro dei fruscii degli alberi notturni. Peter volle conoscere come finiva la storia. Stette via un inverno intero. Tornò a primavera, con 27 scalpi in un sacco. Peter serrò la mascella. «Li ho visti con i miei occhi», disse l'altro, la voce ancora più roca. «Sono sepolti vicino alla tomba delle sue donne». MacLeod si alzò. «Signori, grazie per il tè. Buona guardia». L'uomo si allontanò. I due giovani restarono in silenzio. Walter disse che avrebbe fatto il secondo turno e si avvolse nella coperta. Peter scrutò le tenebre. Immaginò la superficie del lago, mare nel cuore del continente. Le storie di quella notte parlavano tutte di guerra e gli ricordarono che presto avrebbe combattuto al fianco di grandi guerrieri. Mentre ripuliva il fucile, pregò di essere all'altezza.